Ovviamente da mesi ci stiamo mobilitando contro le complicità dell'Italia e dell'Unione Europea rispetto a Israele e al genocidio che sta compiendo a Gaza. È stata chiamata questa 2 giorni di mobilitazione nazionale all'interno della rete antisionista per la Palestina, e quindi appunto oggi in diverse città d'Italia ci mobiliteremo davanti alle caserme o davanti alle industrie di armi, proprio per continuare a dire forte e chiaro questo aspetto, ovvero che la questione palestinese riguarda anche noi, riguarda anche le complicità del nostro paese e dell'Unione Europea, nel supporto politico, logistico, ma anche direttamente militare appunto a Israele. Domani invece andremo a Vicenza, dove ci sarà una manifestazione anche lì per denunciare il coinvolgimento di Israele in occasione della Fiera dell'Oro, come successe anche l'anno scorso. A proposito di Israele, abbiamo visto nella giornata di ieri come dire l'accordo per il cessate il fuoco rischiava di saltare perché il governo israeliano è vincolato all'estrema destra. Non voglio entrare minimamente nelle questioni interne alla politica di Israele, ma quello che vediamo ancora una volta, l'abbiamo visto pochi mesi fa col Libano, ma lo vediamo quotidianamente, ogni volta che ci si avvicina a raggiungere un nuovo cessato il fuoco, qualche nuova forma di accordo, la prima cosa che fa Israele è di nuovo bombardare, uccidere persone. Ieri ci sono stati almeno altri 80 morti in un momento in cui si sta andando a definire un cessato il fuoco. Questi sono degli atteggiamenti criminali in cui noi abbiamo una complicità diretta a partire da un supporto cieco politico nei confronti di Israele. Più in generale nella guerra, voi sottolineate come anche l'aumento delle spese militari, anche richiesto da Trump per la NATO, insomma non faccia bene al nostro paese. Questa in questo momento è proprio una vera e propria corsa agli armamenti che sta venendo spinta da tutti, da Trump ovviamente, dai comandi della NATO, ma è accettata anche dalla von der Leyen e in qualche modo suggerita anche da Draghi. Questo è, diciamo, ovviamente una spinta alla guerra. In questo momento l'Occidente, l'asse euroatlantico, come diciamo, sta spingendo fortemente per il riarmo fondamentalmente. La questione che noi continuiamo a denunciare è che Israele è un tassello fondamentalmente nella politica estera del blocco occidentale, e per politica estera intendiamo chiaramente un'estensione del conflitto che appunto stiamo vedendo a tutto lo scenario medio orientale. Quello che è accaduto in Siria è comunque qualcosa di epocale, evidentemente spinto anche dagli interessi occidentali, ma vediamo anche l'aumento delle tensioni con l'Iran. Vogliono portarci in guerra, noi dobbiamo mobilitarci continuamente per evitare che questo accada. L'obiettivo anche di questa manifestazione è l'allargamento, diciamo così, la costruzione, avete già cominciato all'allargamento di una rete antisionista e anticolonialista. Esattamente, questo parte appunto da delle questioni molto specifiche su qual è il ruolo di Israele, perché continuiamo come paesi occidentali a supportare le politiche criminali di quel paese, ma anche per incominciare a rendere più realtà politica rispetto a questa questione. L'abbiamo visto l'altro giorno, una scritta per la Palestina durante un corteo finisce automaticamente in una denuncia di antisemitismo da parte del sindaco Lepore, come appunto se fosse uno qualunque di Fratelli d'Italia. Non c'è differenza in questo. Anche su questo noi vogliamo riportare chiarezza politica. Lavorare, ragionare appunto su l'antisionismo è un punto importante nelle politiche, diciamo, di tentativo di smorzare appunto questi eventi bellici.